facciamo portello sull'ultima. Le mani. Dal presente facci quello che vuoi, ma poi lasciaci la fine. Tanto tutto finto, tanto tutto in gioco. C'è prima tutto il fuoco e dopo anche l'istinto, e non ci frega più niente. La TV rimane spenta e solo un po' di oggetti. Ignoriamo quei consigli, di sto mondo siamo figli, ma i riconoscenti, perché gli sconosciuti troppo spesso ci rimbalzano. Non ci sentiamo esclusi, siamo noi che ci escludiamo, anche se non fermo mano. Sembra folle, accasciati su un divano, con col peggio su di un prato, legati da uno spago con il vento sulle foglie. Siamo stati vuoti, vuoti, e per questo indifferenti, spogli. Presi, e per questo forse inutili. Per non piegare il capo per un pezzo di cemento, c'è chi ci ha lasciato il fiato e così vale la colpa. Non possiamo più lottare, c'è battuto in ogni modo, affogando i nostri sogni e ci segue un'altra volta. Siamo già stati umiliati, siamo già stati puniti. Nei vestiti abbiamo la puzza che tu ci hai lasciato addosso, nelle corde, nelle pelli, nella voce, nei capelli, nell'occhiaio, sotto gli occhi abbiamo ancora i segni. E la fine, mani in alto, e il confine abbiamo sete. L'acido sui muscoli impedisce questo salto. Finita in energia, solo luce, solo acqua. Ti daremo l'anidride come unico lamento. Siamo stanchi, sporchi, vuoti, e per questo indifferenti, spogli, muti, freddi, e per questo forse inutili. Per chi non li conosce faccio le presentazioni. Alla batteria c'è il miglior batterista di tutta la Gnasco, addirittura. No, c'è un grandissimo batterista che ci viene costantemente prestato dai Lam Noir, gruppo da ascoltare, Lam Noir, e si chiama Maurizio Franco alla batteria. Al basso me lo conoscete tutti, gira sempre da ste parti, ha già suonato venerdì perché è un mafioso. Lui tutto dove riesce suona, la puttana della musica si può dire. No, un grandissimo mio amico Daniele Caponnetto al basso. Alle chitarre abbiamo gli elementi misteriosi. Quella chitarra alla bianca, con le sue magliette monocromo, abbiamo Andrea Girello. Wow! Alla chitarra nera, giorno e notte, siamo più siamo romantici anche sulle scelte dei colori delle chitarre. Samuele e Mario! Oh! Adesso vado da qua! Per uscire con un pezzo di patetico egoismo, gli occhi chiusi per subire questa sola mutazione. La saliva è clorofilla, le lacrime sono limpa, piedi sfondano il terreno e buttano radici. Non abbiamo più nemici, la pelle è già corteccia, non abbiamo più nemici. I capelli sono foglie, piantati qui sul posto come unica difesa, come unica offesa ai nostri frutti indigestibili. Alla voce Stefano Rosini. Buonanotte a tutti.